Presidente, cari colleghi, dovrebbe essere acceso. Forse spostandomi qui. Cari amici rosminiani, signori, signore e signori, vorrei parlarvi di Cristo, sapienza incarnata in Antonio Rosmini. Credere pensando è un motto bellissimo per il compito della teologia. D'altronde è la chiave dell'opera del padre Henri Bouillard, rinnovatore della teologia fondamentale. Nel accingermi ancora una volta a un esercizio di cristologia filosofica, preferirei forse pensare credendo, per significare che la fede è la luce e il riferimento del pensiero, quindi conviene meglio all'impresa della filosofia cristiana. La filosofia s'orienta e si modella secondo e verso la fede, mentre altrove la fede si sottomette non alle misure, bensì alla prova della ragione. Antonio Rosmini, in effetti, senza smettere di essere un grandissimo e quasi sconosciuto teologo, e qui calpesto le tracce dell'amico Staliano, Antonio Rosmini quindi un rappresentante eccelso della filosofia cristiana, di cui non c'è bisogno di riesumare tutte le vicende e tutte le forme, né la disputa del 30 che la fece barcollare. Rosmini è un filosofo cristiano di tutto punto, senza palliativi, un traghettiere delle due sponde, un frontaliere. Il suo luogo prediletto, come egli l'ha ribadito, sono i confini della scienza filosofica e della dottrina teologica. Della sua filosofia, che è sua senza essere sua, dice che è stata partorita, l'abbiamo sentito ieri, partorita dal cristianesimo, che lui stesso ha fatto, per così dire, l'allevatrice per estrarla dalle viscere del cristianesimo. L'espressione, ovviamente socratica, delinea il compito di una maieutica cristiana. Grazie all'arte dell'ostetrica viene alla luce questa filosofia generata dalla rivelazione ebraico-cristiana, ebreo-cristiana. La fede cattolica, citazione, suppone, sottodisse e accenna una filosofia, una dottrina che mostra supporre sotto di sé la più profonda filosofia, quasi un suo preliminare. Ora, egli, questo preliminare, è appunto questa filosofia che giace occulta nelle viscere della cristiana teologia. Teologia che noi ci siamo proposti di aiutare perché venga alla luce, facendo anche noi l'ufficio, quasi direi, dell'allevatrice. Una filosofia quindi forse più congeniale a Pascal che a San Tommaso, poiché è collegata con l'innatismo, il quale segna la presenza immarcessibile dell'idea da un lato e dall'altro la macchia del peccato originale, con la sua misteriosa eredità, trasgressione e trasmissione. Una dualità che indica una natura ferita ma non distrutta. Il carattere scialbo, schematico dell'idea suggerisce parimenti l'incidenza del peccato, nonché allo stesso tempo il riflesso di un mondo esento di sangue e di lacrime. Innatismo e teoria naturale del peccato d'origine sono i due pilastri, piuttosto i due archi, che chiudono a ogiva il sistema di Rosmini. Dunque, la filosofia così prelevata sul dogma cristiano si presenta senza difficoltà come filosofia del cristianesimo oppure teoria del Evangelo. Dimenticando un attimo il versante scuro, il Carteggio annuncia magnificamente una dottrina delle idee intima e congenita al cristianesimo, che frutterà una luce religiosa nuova, che con la sua bellezza deve rapire i cuori e soggiogare le menti. È nelle sue viscere che si nasconde una filosofia sfolgorante di bellezza e beante gli intelletti per la sua origine divina e perché riconduce di nuovo a Dio. Frasi conosciute. Il breve inno alla filosofia dice tutto. La filosofia, opus rationis, restituita alla pienezza della sua etimologia, si riallaccia alla rivelazione cristiana, intesa come verità e saggezza comunicata alla mente. Quindi non lascia posto al pluralismo e al relativismo, poiché è dovuta a una illuminazione del verbo interiore, come la filosofia di Malebranche, a cui si può spesso paragonare. In questo testo prezioso degli studi dell'autore, che è una autobiografia intellettuale assieme a una introduzione alla filosofia, Rosmini dichiara: «Mi sono appigliato a un solo sistema. La luce della verità mi colpì vivacissima e brillantissima». E non senza un tocco di ironia si scusa di aver scoperto la verità, la quale è una e concorda, come dice, non concorde, concorda, e di attenervisi, data l'impossibilità di fare altrimenti, per aver io trovata la verità così altera e così impolitica, che vuol sempre essere sola e si ricusa d'essere in due, dei quali costumi della verità io non ho colpa. Poiché il sistema attinge alla verità stessa, mentre gli altri sistemi, in qualche modo, sono deboli e pericolanti. Niente dimostra meglio la coappartenenza della filosofia e del cristianesimo di questa filosofia assoluta. Rosmini non vuole abolire l'autonomia della ragione umana, né la consistenza dell'ordine naturale. L'innatismo non è un dato della rivelazione, ma la sua premessa, 50 anni prima di Blondel, è che non si può parlare di filosofia separata, rinchiusa su di sé. La cagione profonda ne è che tutto, quindi gli oggetti della conoscenza, è stato creato nel verbo, secondo una tipologia impressa nella mente umana, e che il verbo interno immanente aderisce al pensiero, l'ispira segretamente, che l'incarnazione poi reca un sovrappiù di conoscenze e dà una realtà al sintesismo dell'essere ideale. Questo corrisponde al disegno inciso nella creazione stessa. Leggiamo un brano dell'introduzione al Vangelo di San Giovanni, questo capolavoro incompiuto. Relativamente all'uomo e alla scienza umana, egli, cioè il verbo, è principio oggettivo della scienza umana, sia naturale sia soprannaturale. Della scienza umana naturale, egli è il principio remoto ed occulto, perché il principio oggettivo della scienza naturale è l'idea dell'essere, la quale, come pura idea che ella è, non è il verbo, però viene dal verbo, mostrata alle menti, senza però che egli ancora mostri loro se stesso. La conoscenza naturale è assimilata alla legge naturale scritta del tempo antico, ossia dell'Antico Testamento. Rosmini continua con la scienza soprannaturale, la scienza perfetta, il cui principio immediato è di nuovo il verbo, ma palese, interno come grazia, esterno come incarnato. Sulla scorta di San Tommaso distingue due modi dell'essere principio del verbo, relativamente alla scienza cristiana considerata in se stessa, o agli uomini che l'imparano, cioè il verbum Dei e il verbum Car. Ora, la distinzione, e ancora una volta rammentiamo Malebranche, delinea esattamente la sollecitazione, il movimento o dinamismo della filosofia cristiana che compie l'itinerarium ad Christum, e inversamente l'insegnamento sovrabbondante di chi le viene incontro, compiendo il movimento di avvicinamento e di discesa che culmina nell'incarnazione. Perciò il Verbo incarnato è veramente la chiave di volta e il vincolo sostanziale. Al limite, la risposta alla scienza soprannaturale, l'accoglienza della saggezza reale, visibile, incombe alla fede, ma i rapporti fra fede e ragione, ancora una volta non posso dimenticare Saliano, i rapporti fra fede e ragione sono così intrecciati che il circolo rosminiano del intellectus querens fidem querentem intellectum non molla. La fede calamitata dall'intelletto è il luogo frammezzo a due filosofie, naturale e soprannaturale, dice lo stesso Rosmini, e aggiunge che Cristo ha salvato la vera filosofia e ridato alla filosofia la dignità di maestra di vita. In tale funzione Cristo assume ovviamente le vesti del summus philosophus, del filosofo supremo, ciò che ci fa presentire che tutte le vicende della cristologia filosofica, centro e focolare della filosofia cristiana, hanno un appuntamento nell'ampio sistema rosminiano. Ma prima di accennare alla presenza controversa di Cristo in persona nella filosofia stessa, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla ricerca della saggezza divina, che è lo scopo e la ragion d'essere della filosofia. Ripetiamolo, la filosofia naturale precede la fede, la soprannaturale la sussegue, di modo che essa, citazione, quasi pacierà fra esse e mediatrice ne congiunge le destre. Bella frase rosminiana. Soltanto che la spinta riguarda la prima filosofia che ha come materia la formazione dell'universo. Il primo lume è l'essere ideale, l'idea dell'essere costitutiva dell'intelligenza, primo intuito, prima verità, a cui credere, e che è già il riflesso e l'abbozzo di una verità superiore. Qui Rosmini si schiera apertamente fra i tradizionalisti. L'intelletto rappresenta una rivelazione interna e naturale. Quel primo lume è la verità che veste poi varie forme. Ma quando si tratta di alzare la filosofia cristiana, Rosmini non indugia, come se avesse fretta di passare, raggiungendo il parallelo, alla scienza divina che abbraccia e supera l'effigie umana. Quasi disprezzerebbe l'idea, sebbene le idee sono cose divine, l'unico elemento divino che si rivenga nella natura. Ecco il suo sospiro di sollievo alla vista del compimento. E niun altro può ascendere a una scienza compiuta delle cose se non ascende a colui nel quale tutte s'accolgono, si impernano, si collegano, si unificano. Né v'ebbe mai filosofo d'altamente che non intendesse a sintetizzare le sue cognizioni, riferendo le cose conosciute all'essere divino, e che credesse di dover aspettare altronde il compimento dello scibile umano, o questo riputasse ultimato e assoluto finché, speculando, non fosse, siccome rigagnolo, ricondotto nel mare dell'essere e della sapienza, onde era quasi direi evaporato e poscia condensato in acqua di scienza. Tutto lo stile così rosminiano. Dio il compimento naturale e necessario della conoscenza umana, delle conoscenze umane, né il progresso delle scienze, né il sistema assoluto già raggiunto da Hegel, bastano per arginare l'accesso al male. Qui il filosofo interpreta la brama pascaliana della sproporzione, a cui accenna un paragone meno felice ma espressivo. Se il Dio l'avesse, l'uomo l'avesse, lasciato privo d'un senso soprannaturale, sarebbe riuscito, quasi direi, simile a un figliuolo nato con una gamba assai lunga e l'altra corta. Anche il paragone zoppica un poco, poiché non si sa a che riallacciare la gamba corta, che è piuttosto un moncherino. Comunque, la pienezza della scienza doveva essere manifestata nel tempo predefinito, e ciò dall'apparizione dello stesso Verbo di Dio, non più endiatetos, ma proforicos, in carne ed ossa, destinato ad essere rivelatore e rivelato in uno. Rosmini lo saluta in termini splendidi. Ancora un brano di lirica speculativa, come ci sono parecchi nel testo degli studi dell'autore. Quel maestro che Platone desiderava venisse sopra la terra, poche pagine prima il Roveretano si riferisce al Menone e al Teagete, senza precisazioni, riprendo, quel maestro che Platone desiderava venisse sopra la terra per svelare agli uomini le cose più necessarie e per arrecarne loro la certezza, quel maestro, il Dio, che è ad un tempo lume, oggetto unico ed essenziale dello scibile, persona, verbo divino, si fece carne ed apparve in mezzo degli uomini, vero uomo anche egli, senza cessare d'essere vero Dio. Gesù Cristo ebbe nome, Salvatore, unto di Dio. Egli insegnò a conoscere il Padre, avendo detto a chi prestava a lui fede: niuno mai vide il Dio, l'unigenito, che nel seno del Padre egli le narrò. Aggiunge il detto a Filippo: chi vede me vede anche il Padre. Rivelando Dio, Cristo rivela se stesso. Il maestro svelò se stesso e compì lo scibile nell'umanità. In una breve prosopopea ironica alla Kierkegaard, Rosmini immagina un professore tedesco, un Wegscheider qualsiasi, una nota segnala la repulsione di Strauss davanti alle pretese esorbitanti del Cristo, quindi immagina un Herr Professor che scegliesse in tutta semplicità la sua modesta persona come tema di un suo corso semestrale. Qualcuno allora dubiterebbe della sua salute mentale. Non così per colui che il modello è la realtà della stessa saggezza, dottrina e persona, oppure oggetto e persona. E lui che si sente e che si imprime nelle menti e nei cuori dei discepoli, fons sapientiae verbum Dei in excelsis. E Rosmini ha scritto in lettere grosse. C'è una perfetta omogeneità fra la saggezza massima, come possiamo concepirla, e la sua realizzazione nella figura storica di Gesù Cristo. Questi è l'ideale del sapiente. L'uomo ideale è il saggio ideale, e il saggio ideale nello spirito di Dio si è effettuato sulla terra. In un saggio tipo, dice, è apparso il tipo dell'uomo. L'umanità ha trovato in Gesù il suo ideale divinizzato e realizzato. La prossimità a Kant non deve ingannare, dal monogramma di Kant non deve ingannare, poiché in Kant c'è l'archetipo, l'ideale, come monogramma della ragione iscritto in essa e a cui bisogna confrontare le realizzazioni, anche le più sublimi. Il giudizio della ragione dà le misure del riferimento storico. Mentre per Rosmini la saggezza incarnata palesa l'archetipo, evidenzia l'identità e la conformità, addirittura supera e sopraffa tutti i sogni della ragione. Cristo è lui stesso la misura di sé e di tutto. Con l'incarnazione del Verbo fu soverchiato il desiderio dell'umana natura. Alla comparsa dell'uomo Dio, l'idea stessa divenne la misura buona e pigiata e scossa e traboccante di cui parla il Vangelo. Il nostro, il Roveretano, capovolge senz'altro l'impostazione di Kant. La cristologia rosminiana è una cristologia maggiorante, anzi massimizzante. Quindi tutto l'impatto dogmatico della cristologia classica si riversa sull'appiglio filosofico. Rosmini dice, testo, sull'addentellato filosofico. Però il suo Cristo soggetto-oggetto regge alla carica delle prerogative divine in un recettore umano. Il summus philosophus è la filosofia Christi, nel senso di ex Cristo e di de Cristo. Queste filosofie si danno la mano. È il saggio per eccellenza, la via, la verità e la vita, ed è anzitutto il maestro. Interiorità ed esteriorità si congiungono nel maestro. Maestro è pure un vocabolo preferito di Kierkegaard, che l'applica quasi esclusivamente al rapporto maestro-discepolo. Mentre il maestro di Rosmini lo è assolutamente e catexoken, per eccellenza. Il suo insegnamento è il suo essere. Se un teologo ha spiegato e approfondito la celebre formula del Christianus alter Christus, è Rosmini. In effetti, il maestro per antonomasia non è rimasto al suo essere ideale e oggettivo come verbo e maestro interiore, si è comunicato anche personalmente. Egli non è restato oggetto conosciuto per sé e persona divina. La sua soggettività nascosta si è manifestata e divenuto nello stesso tempo oggetto e soggetto reale. Come verbo è stato il maestro della scienza naturale, come verbo incarnato lo è della scienza soprannaturale. Ripeto queste nozioni importanti. Con il suo squisito senso spirituale, Rosmini non si sofferma alla trasmissione di conoscenze inedite, inaudite, da parte dello gnostico perfetto che è Cristo, verità e prospettive che costituiranno il corpus della teologia, ma all'infusione quasi capillare di suggerimenti devoti, di una vita meravigliosa che si insinua nei fedeli tramite i sacramenti, battesimo e soprattutto Eucaristia. Rimando agli sviluppi affascinanti del prologo di San Giovanni commentato, Cristo è maestro di vita, nonché di scienza e di saggezza. Diamo la parola al nostro quando descrive gli effetti dell'educazione sia manifesta sia occulta. Nello specchio del discepolo rifulge l'azione del maestro, maestro di verità e carità. di maniera che non è parte dell'attività del discepolo, non potenza, non atto, che non sia accompagnato dal Verbo e dal suo Spirito, e in cui quello e questo non si trovi. E qui si vede non solo il perché la sapienza cristiana si riduca all'imitazione di Cristo, ma di più come questa imitazione sia possibile agli uomini, e possibile in un modo del tutto singolare e meraviglioso. Se il maestro di cui si tratta è di una natura così diversa dall'umana, che egli ha la potestà di entrare e quasi assidersi nell'anima stessa del discepolo, e quindi, come un'auriga dal cocchio, guidarne tutte le potenze, ed anzi di più, del suo proprio spirito animarle, se la sapienza dei discepoli è la stessa sapienza divina partecipata, lo stesso maestro diventa chiarissimo come all'imitazione di Cristo, sottolineato, si riduca la sapienza soprannaturale degli altri uomini. Il saggio insegne, supremo, identico alla verità e all'amore, e in realtà l'ospite e l'amico delle anime, il vincolo d'unione, lo scrutatore dei cuori, Herzenskundiger, Lumen Cordium, come lo Spirito Santo da cui è inseparabile. Alla presenza del Logos, esemplare e archetipo della ragione, di cui chiarisce e guida tutte le operazioni, si sovrappone dunque l'inabitazione della grazia personale e sacramentale di Cristo, poiché per incontrare personalmente l'uomo bisogna esserlo. C'è una specie di necessità dell'incarnazione. Il Maestro Supremo, dal quale emana l'insegnamento insuperabile e trascendentale, è il Verbo incarnato Gesù Cristo. Gesù Cristo è il fulcro, il perno della sublime cristologia filosofica di Rosmini, filosofica e anche teologica. Ci colpisce il fatto che il nostro, il Roveretano, non insiste come tanti teologi sulla scienza del Cristo, i suoi gradi, le sue vicende. Non interessano i mutamenti del sapere assoluto del Verbo nell'abbassamento umano. Invece lo ritiene l'essere del Cristo, il suo essere carne, onde i suoi scandagli nel mistero dell'incarnazione, lampi geniali che purtroppo talvolta sono stati presi in malam partem dai censori ecclesiastici. Rosmini non ha la pretesa di chiarire il mistero dell'unione ipostatica, ma di primo acchito c'è una analogia fra l'azione di Cristo nelle anime dei credenti, quindi l'inabitazione, e la relazione del Verbo persona all'uomo assunto. Uomo assunto, o umanità assunta, homo assumptus o susceptus, è il termine classico, ma non nel senso enfatico eccessivo dell'assumptus homo di Deodat de Bali e di Selye. Uomo assunto, il Verbo assume, prende possesso dell'uomo di cui è il principio operativo. Rosmini rimane, come tutti i teologi del suo secolo, quasi si può dire fino a questo secolo, nel contesto della cristologia descendens, dal alto in basso, discendente. Ma questo non vuol dire che non si sforzi di schivare lo scoglio del criptodocetismo o criptomonofisismo di cui Karl Rahner taccia la teologia anteriore. La cosiddetta communicatio idiomatum è messa in rilievo. Che se il Verbo è la persona divina del Cristo, come il Verbo è divenuto indivisibile dall'assunta umanità, così lo spirito del Verbo doveva in questa riposare con pienezza. solo che i doni dello Spirito Santo seguono l'ordine inverso della loro effusione nelle anime degli uomini. Quindi ordine inverso, sapienza, intelletto, consiglio e fortezza, scienza e pietà, immenso timore riverenziale. Questo c'è, è d'altronde l'ordine della Bibbia e del Catecismo, ma Rosmini ne ha ricavato la destinazione cristologica. Ciò che segue è più caratteristico ancora. L'umana natura di Cristo, che è così limitata, così angusta, vedevasi accompagnata, empiuta, posseduta, assunta, in una parola, da un ospite di tanta maestà che, come sua propria persona, la reggeva, la santificava, assolutamente ne disponeva. L'immagine eucaristica del hospes anime, lo stesso che l'allusione occulta allo strumento congiunto con Dio di stampo ignaziano, mettono in evidenza le analogie spirituali che hanno purtroppo spaventato i giudici. Però oggi un teologo ortodossissimo, come Monsignor forse cardinale o era cardinale Pietro Parente, può riferirsi alla persona come hegemonicon e all'unione mistica senza risvegliare sospetti e proteste. Comunque la parola ospite, dunque accolto nell'umanità, è discretamente ambigua, poiché non sottolinea l'appropriazione, bensì l'accoglienza e il passaggio nella carne umana. Ora, il verbum caro implica una stretta identità, e non c'è dubbio che Rosmini vuol colmare o risaldare ogni divario. Infatti, non intende un visitatore che occupa la casa aperta, e ospite, o sarebbe ospite, piuttosto nell'altro senso positivo, non di invitato, accolto, bensì di padrone e maestro che attira, possiede, assume. Così almeno vorrei interpretare la frase, o magari fletterla. La carne umana di Cristo è santificata e santificante. Nelle sublimi indicazioni del prologo, dell'introduzione al Vangelo di Giovanni, il nostro ha affrontato il rischio di precisare di più il nesso ipostatico. Il Verbo è persona di Cristo, il suo supremo principio operatore o operativo. Ma come è unito alla natura umana? Dalla natura divina non si parla, poiché è attaccata alla persona. Risposta: santificandola, divinizzandola. Sentiamo il famoso brano. Parmi che sia da credere che nell'umanità di Cristo la volontà umana fu talmente rapita dallo Spirito Santo ad aderire all'essere oggettivo, cioè al Verbo, che ella cedette interamente a lui il governo dell'uomo, e il Verbo personalmente ne prese il regime, così incarnandosi, rimanendo la volontà umana e le altre potenze subordinate alla volontà in potere del Verbo, che come primo principio di quest'essere teandrico ogni cosa faceva o si faceva dalle altre potenze col suo consenso. Onde la volontà umana cessò di essere personale nell'uomo e da persona che negli altri uomini rimase in Cristo natura. Lasciamo l'ombra di monotelismo che tutto sommato si può sciogliere. Il rapimento, il raptus mistico, è anche un punto dolente, poiché sembra cambiare l'unione ipostatica totalmente sui generis in unione estatica. Ma rammentiamo che si tratta di analogie, quasi di metafore, che sono puntellate da formule che le raddrizzano, come quella dell'essere teandrico. Eppure non oserei affermare che l'ambiguità adesso rilevata sia totalmente scomparsa. Il dominio del verbo, tutto oggettivo, è talmente potente di ridurre l'uomo rapito, del quale si è impadronito senza riserva, c'è una specie di legatura, direi legatura delle potenze, che non lascia scampo all'umanità e all'autonomia. Da una parte, Cristo, citazione, Cristo non era solo Dio, ma anche uomo, in modo però che la personalità di quest'uomo risiedeva nel Verbo di Dio, onde il Verbo di Dio come persona reggeva l'umanità quasi potenza inferiore. Quindi anche l'umanità riceveva dal Verbo il divino istinto di unificare realmente gli uomini nei quali amava la similitudine della natura. D'altra parte, a proposito dello Spirito emesso da Cristo, citazione, il Verbo sì rimane distinto dal soggetto uomo in cui dimora per quella differenza che vi ha fra l'oggetto e il soggetto, la quale è categorica. Residenza, dimora sono sinonimi e attestano forse sulla scorta del contesto una oscillazione fra la presa ontologica e sacramentale e lo schema mistico. Ma Rosmini forse ha voluto impostare diversamente l'intelligenza del mistero. Ovviamente lo schematismo prediletto da lui è l'inabitazione e la comunione eucaristica. Il corpo di Cristo è il massimo sacramento, si proroga in corpo mistico e siamo, ripeto, già detto, altrettanti Cristi, formula stessa di Rosmini, idee di cui è superfluo ribadire la modernità. Soltanto l'umanità gloriosa del Cristo è mediatrice e non posso resistere al piacere di leggere la pagina dell'introduzione al Vangelo che riguarda l'incorporazione a Cristo con un linguaggio icastico, come capita ogni tanto in Rosmini, che è abitualmente abbastanza asciutto. Come alla presenza d'un leone. Un cagnolino chiuso con esso trema sentendo la nullità delle sue forze verso a quelle del generoso re della foresta, così ed assai più il vero discepolo si sta annullato in se stesso e quasi tremante per il sentimento di Cristo, di quel leone di Giuda che è in lui, con cui abita in un modo più vicino e più stretto che non il cagnolo nella gabbia del leone. E s'annichili nell'umiltà, così in pari tempo usa di tutta la sua potenza alla vita di quello entro cui vive ed opera, dandogli la propria vita immortale invece della sua mortale. Brano prezioso. Il roveretano è così penetrato dal verbo incarnato ma interiore e sacramentale, verbo incarnato ma interiore e sacramentale, che forse trascorrerebbe il Cristo evangelico, la cui umanità era come la lettera, pietra d'angolo, ma contrasto lettera-spirito si trova anche nel prologo al Vangelo di San Giovanni. Ma sarebbe forse da rileggere qualche pagina, non l'ho fatto questa volta, dell'antropologia soprannaturale che valorizza il Cristo come carne, quindi come lettera. Tuttavia l'ostacolo è pure mezzo. L'imprescindibilità, persino la necessità dell'incarnazione fa riscontro allo scandalo della stessa incarnazione. La lezione 82 l'esprime, sempre dello stesso libro, l'esprime egregiamente. La persona divina del Verbo non può comunicarsi in modo soggettivo ad un individuo dell'umana natura se non incarnandosi in esso. All'incontro, l'umanità di Cristo, per la virtù divina di cui è informata, poteva operare fisicamente e in modo soggettivo sull'umanità nostra, come un amico agisce sull'amico e uno sposo sulla sposa, molto bello. E la vita di Cristo, come uomo assunto dalla divinità, poteva operare sulla nostra vita soggettiva e aggiungerle del suo vigore e della sua propria vitalità. Dato che l'incarnazione è l'unico mezzo per l'umanità di pervenire alla vita divina, di essere dunque divinizzata, si scorge facilmente un tratto scotista nella cristologia rosminiana, come l'impiego dell'espressione essere teandrico poteva già suggerire. Non c'è, come in Solovyov, una teandria o una sofiologia, né come in Schelling o Blondel un'insistenza così forte sul primogenito di tutta la creazione, né pure il concetto avvincente dell'uomo eterno che il padre Louis Bouillet vorrebbe ripristinare. Eppure c'è una preesistenza dell'umanità nel verbo eterno, nell'umanità di Cristo, nel verbo eterno, umanità, se posso dire, non ancora assunta. Come tutti gli esseri, l'umanità di Cristo ha una esistenza oggettiva nel verbo, cioè una esistenza divina, assoluta, ossia una esistenza reale, non ideale. Nel vocabolario di Rosmini era un'appartenenza del verbo. La mutazione avvenuta nell'umanità, non nella divinità, certamente, riguarda la transizione dall'essere oggettivo all'essere soggettivo ed extrasoggettivo che vanno insieme nella psicologia di Rosmini. Questo che potrebbe essere soltanto una definizione filosofica di stampo rosminiano dell'incarnazione, pur conservando aspetti oscuri, implica una sorta di preesistenza umana, non dico l'incarnazione da tutta l'eternità di schellingiana memoria, ma una sorta di preesistenza umana, perlomeno un disegno eterno, poiché l'uomo predestinato non poteva essere schierato con gli altri. La sua appartenenza non era colei di qualsiasi creatura. È un peccato che Rosmini non abbia sviluppato questo punto difficile. D'altro canto, l'insistenza sull'operazione dello Spirito Santo potrebbe forse indebolire il peso della carne e la mediazione virginale. Non sarebbe lecito rimproverare a Rosmini di aver dimenticato la passione, le sofferenze, la croce, e Giuseppe Lorizio, che saluto in questa sala, meritevole rosminiano, Giuseppe Lorizio quindi ha rilevato nell'opera anche giovanile i segni e le tracce di una teologia crucis che si trova anche, si rintraccia nelle cinque piaghe. Il sacrificio non viene trascurato, tuttavia il Cristo di Rosmini è il Cristo attuale e il Roveretano evidenzia piuttosto il leone di Giuda vincitore, il risorto, la carne gloriosa e sacramentale. La vita divina infiltrata alle vene del Salvatore, la vita ipostatica gli comunicava fuggitivamente una bellezza sovrumana, una irradiazione. Poi la meravigliosa teoria eucaristica rifluisce sull'ipostasi che in certo modo il sacramento per eccellenza suggella. L'Eucaristia ha superato la morte, pegno e primizie della resurrezione. Così Cristo continua la sua opera di vita e di salvezza nella Chiesa e tra gli uomini. La prosegue pure dall'alto nella condotta dell'universo, delle cose del mondo, dove la saggezza si chiama provvidenza. Così, prima di finire, cogliamo l'occasione di aprire la grandiosa Teodicea, di cui parlerà anche l'amico Piazza. Anche essa un capolavoro studiato da Lorizio che ne fece spiccare la forte impronta cristologica. D'altronde, come la Teodicea di Leibniz, non esenta di sfregi eroici. Non direi che risolve il problema del male e che dissolve il suo mistero, però rimette tutto in una giusta luce che cancella molte ombre, senza il fanatismo dell'ordine che incontriamo nel Malebranche. Il cristocentrismo governa l'esame metodico delle leggi e delle vie della provvidenza. Cristo è l'ultima chiave e nell'intreccio dei mali forse l'unico fanale. Ma con lui la storia è in salvo. È in salvo. Con mirabile semplicità, Rosmini scrive: «Il Verbo si fece carne e abitò in noi, e un uomo immune da ogni peccato assunto in una persona divina divenne redentore di tutti gli altri uomini peccatori e per redimerli morì». L'enigma di Giobbe aspettava tale risposta. In verità, Rosmini non è mai migliore di quando innalza la prodezza dell'apparizione degli affanni del Cristo. Allora la sua penna vibra e si nota il pregio della duplice vicenda del Verbo, o meglio, della sapienza incarnata, oggettiva e soggettiva. Non è che tutto possa piacere in questa politica divina ricavata dalla fede teologica. Ripigliata da Malebranche, l'economia divina, cioè la legge del risparmio e dei minimi mezzi, ha qualcosa di implacabile, di inesorabile. Soltanto una profonda spiritualità adora tutti i decreti e ne confessa con il salmista la saggezza nascosta, occultata. La rappresentazione di Dio, prode, Dio eroe, Gesù Cristo nell'Apocalisse, ha dei cenni trionfalistici. La realizzazione dell'archetipo, archetipo dell'umanità deificata, è la meraviglia delle meraviglie e corredata da quella dei tipi del male, cosa che ci fa un po' scuotere il capo. Una serie numerosissima d'umani individui rispondenti ai tipi del male, questi in servizio e a gloria di quelli, cioè i tipi del bene. Questo è un po' dubbioso. Rosmini è consapevole delle difficoltà, perciò ritorna sempre e sempre più come l'ago della bussola al polo a Cristo sapientissimo e quintessenza dei beni. Di modo che la Teodicea, man mano il pensatore progredisce, diventa una vera scienza Christi, oggettiva e soggettiva. L'assoluto nella storia sperimenta la massima contrazione attraverso Cristo, filigrana e canovaccio della lettura provvidenziale. Si giunge alla conclusione e al pleroma con la legge dell'accumulazione dei beni. Ma retrospettivamente quasi tutte le azioni della provvidenza e sapienza rintracciano il loro esito, il loro sbocco in Gesù Cristo. Ovviamente la legge del minimo mezzo, un uomo, le leggi della gradualità e della varietà, dell'esclusa uguaglianza che si collega con la varietà, con la legge anche della permissione del male, la legge dell'eroismo e quella ad essa congiunta dell'antagonismo, la legge anche della celerità, ma compensata anche dalla pazienza e dalla longanimità. Celerità che si scorge nella vita breve e piena del sapiente, questa brevità gradita anche a Kierkegaard e a Newman e così spiacevole a Guardini. Tutte queste leggi della provvidenza si verificano in lui che ne è il primo utente ed esecutore. Il principio dell'accumulazione dei beni corona l'evento di Cristo e l'immagine tradizionale della bilancia, la statera Christi, sorge opportunamente. citazione, ma quanto poi trasmonda la somma del bene se si pone sul bacino che lo contiene Gesù Cristo stesso. O qual bilancia reggerà tanto pondo dove si nascondono tutti i tesori della sapienza e della scienza di Dio, ogni pienezza di grazia. Qui è realizzato l'archetipo dell'umanità sublimata. Tutto il bene morale possibile è realizzato nel solo Cristo. Più avanti l'autore evoca tutta quella immensa mole che è destino di compartire in fra gli uomini. La divina umanità di Gesù Cristo impedisce ciò che Kant chiamava lo scacco di ogni teodizea, dal punto di vista razionale. L'esito ottimistico è ancora accentuato negli inediti, alla fine di questo grosso libro della teodizea, dove per esempio l'opus divinum è assimilato a una tavola di Raffaello o Correggio con il mirabile magistero dei colori da loro seguito. Concludendo, vorrei aggredire alla figura del maestro, che è stato la nostra stella polare, la figura del maestro di filosofia cristiana che abbiamo salutato nell'esordio. Citazioni. La filosofia cristiana non si presentò al mondo con questa debolezza di umani sapienti che si conformano alla rilassatezza degli uomini. Il sapiente divino che annunziò l'Evangelio non rivolse agli uomini le sue parole a somiglianza di quei maestri umani che hanno per fine ai loro ragionamenti di strappare dalle bocche dei loro uditori una subitanea approvazione, ma parlò in modo che dimostrava non avere a fine che l'istruzione, non lusingare le opinioni preesistenti, ma sterpare da loro quelle che fossero false, anche con noia ed ira, con non persuadere il dolce loro sonno alle menti inerti, ma stimolarle, riscuoterle, tuonando tali verità che richiedono ingegni risvegliatissimi e al cui eccitamento che non si desta dal letargo tal sia di lui. Non aspettare, insomma, timidamente dagli uomini un favorevole giudizio alle profferte dottrine, ma giudicare quelli che non lo ricevessero. Non vi fu verità così ampia, così sublime, così perfetta, così beatifica, che il cristianesimo non bandisse universalmente. In tal modo conseguì che un gran numero di verità, delle più astratte e delle più difficili, si rendessero familiari a tutto il genere umano, e gli idioti e le donnicciole fra i cristiani sapessero innumerevoli delle verità profonde, delle quali non avevano che un solo bagliore riflesso e lontano i più celebrati sapienti dell'antichità. Fine della citazione. Questa pagina, che ho dovuto un poco tagliare, ne dà un campione. Antonio Rosmini Serbati, discepolo divenuto maestro, è stato degno del maestro assoluto. Vi ringrazio.